Anche quei vicini che avevano definito Peter Firston una vecchia volpe non l'avevano mai accusato di falsa cortesia e la sorella era del tutto abituata alla tipica assenza di convenevoli che contrassegnava il suo senso dei legami di sangue. In effetti, lei stessa era solita pensare che la completa libertà dal comportarsi secondo le convenienze in seno alle famiglie facesse parte dei disegni dell'Onnipotente. Si alzò lentamente, senza alcun segno di risentimento, e disse con la consueta cantilena smorzata: Fratello, spero che il nuovo dottore possa fare qualcosa per te. Solomon dice che si parla molto della sua bravura. Certo, il mio desiderio è che tu continui a vivere e non c'è nessun più pronto a curarti di tua sorella e delle tue nipoti. Basta solo che tu lo dica. C'è Rebecca e Joanna ed Elizabeth, lo sai? Già, me ne ricordo. Vedrai che mi sono ricordato di tutte quante, tutte brune e brutte. Avrebbero bisogno di un po' di soldi, eh? Non c'è stata mai abbondanza di bellezza fra le donne della nostra famiglia. Ma i Firston hanno sempre avuto un po' di soldi e anche i Whale. Anche Whale avevano dei soldi. Un uomo cordiale, Whale. Già, i soldi sono un buon uovo. E se hai dei soldi da lasciare in eredità, mettili in un nido caldo. Arrivederci, Mrs. Whale. A questo punto, Mr. Firston si tirò giù entrambi i lati della parrucca come se volesse diventare sordo e la sorella se ne andò ruminando su quel discorso sibillino. Nonostante fosse gelosa dei Vincy e di Mary Gert, nelle sue sacche mentali restava come ultimo sedimento la convinzione che il proprio fratello, Peter Firston, non avrebbe mai potuto lasciare il grosso delle proprietà a qualcuno che non fosse suo parente consanguineo. Altrimenti, perché l'onnipotente si era portato via le sue due mogli, entrambe senza figli, dopo che egli aveva guadagnato tanto col manganese e le altre cose, facendosi ricco quando nessuno se lo aspettava? E perché c'era una chiesa parrocchiale a Lowick dove i Whale e i Powderell sedevano tutti nello stesso recinto di famiglia da generazioni, accanto al recinto dei Firston? Se la domenica successiva alla morte di suo fratello Peter, tutti dovevano sapere che la proprietà era passata a qualcun altro. La mente umana in nessun periodo ha accettato un caos morale e un risultato così assurdo, strettamente parlando, non era concepibile. Ma abbiamo timore di molte cose che non sono di rigore concepibili. Quando Fred entrò, il vecchio lo osservò con un particolare ammiccare degli occhi, che il giovane aveva spesso avuto ragione di interpretare come orgoglio per i tratti soddisfacenti della sua persona. Voi due signorine andatevene, disse Mr. Firston. Voglio parlare con Fred. Vieni nella mia stanza, Rosamond. Non farai caso al freddo per un po', disse Mary. Le due ragazze si erano conosciute non solo da piccole, ma avevano frequentato insieme la stessa scuola provinciale, Mary come scolare a contratto. Così che avevano molti ricordi in comune e amavano molto parlare in privato. In realtà questo tête-à-tête era uno dei motivi per cui Rosamond era venuta a Story Court. Il vecchio Firston non si decise a iniziare il dialogo finché la porta non fu chiusa. Continuava a guardare Fred con lo stesso ammiccare e con una delle sue smorfie consuete, stringendo e aprendo la bocca, e quando parlò fu con una voce bassa che si sarebbe potuta scambiare per quella di una spia pronta ad essere tacitata piuttosto che per il tono di un vecchio offeso. Non era un uomo che provasse una forte indignazione morale, anche quando era lui ad essere stato oltraggiato. Era naturale che degli altri cercassero di approfittare di lui, ma in questo caso egli era un po' troppo astuto per le loro capacità. Così, signorino, hai pagato il 10% per dei soldi che hai promesso di ripagare ipotecando le mie terre quando io sarò morto e sepolto, eh? Di. La mia vita la calcoli a 12 mesi? Ma posso ancora cambiare il mio testamento? Fred arrossì. Non aveva preso a prestito del denaro con tali clausole per buonissimi motivi, ma sapeva di aver parlato con una certa fiducia, forse con più fiducia di quanto ricordasse esattamente, della prospettiva di ottenere la terra di Firston come futuro mezzo per pagare i debiti attuali. Non so a cosa alludiate, signore. Certo, non ho mai preso a prestito del denaro su una sicurezza così labile. Vi prego di spiegarmi. No, signorino, sei tu che devi spiegarmi. Posso ancora cambiare il mio testamento? Lascia che te lo dica. Sono sano di mente. Posso calcolare mentalmente gli interessi composti e ricordare il nome di ogni imbecille come 20 anni fa. Che diavolo! Ho meno di 80 anni, dico. Devi smentire questa storia. L'ho smentita, signore, rispose Fred con un pizzico di impazienza, non ricordando che lo zio non faceva distinzione dal punto di vista verbale fra smentire e confutare, sebbene nessuno fosse lungi dal confondere le due idee più del vecchio Thurston, il quale spesso si meravigliava che tanti stupidi prendessero le sue asserzioni per dimostrazioni. Ma la smentisco di nuovo. La storia è una stupida menzogna. Stupidaggini. Devi portarmi dei documenti. Proviene da fonte autorevole. Ditemi il nome della fonte e fategli dire il nome dell'uomo da cui ho preso a prestito i soldi e allora potrò confutare la storia. È una fonte piuttosto buona, penso, uno che sa quasi tutto quello che succede a Middlemarch. È quel tuo abile, religioso e caritatevole zio. Avanti! A questo punto Mr. Thurston fu scosso all'interno in quel suo modo particolare che era segno di allegria. Mr. Bulstrode! Chi altro, eh? Allora la storia si è trasformata in questa menzogna in seguito a qualche parola moraleggiante che forse lui ha lasciato cadere al mio riguardo. Dicono che lui ha fatto il nome dell'uomo che mi ha prestato i soldi. Se un tale uomo esiste, sta sicuro che Bulstrode lo conosce. Ma supponendo che tu abbia solo cercato di farti prestare i soldi e non ci sia riuscito, Bulstrode saprebbe anche questo. Tu portami uno scritto di Bulstrode che dica che lui non crede che tu abbia mai promesso di pagare i tuoi debiti con le mie terre. Andiamo! Il volto di Mr. Thurston esibì l'intera gamma dei suoi sogghigni come sfogo muscolare per il muto trionfo della saldezza delle sue facoltà. Fred ebbe l'impressione di trovarsi in un disgustoso dilemma. Starete scherzando, signore? Mr. Bulstrode, come altri uomini, crede in dozzine di falsità ed è prevenuto nei miei confronti. Potrei facilmente convincerlo a scrivere che non era a conoscenza di alcun fatto a dimostrazione della diceria di cui parlate, per quanto questo potrebbe far nascere del risentimento. Ma non potrei mai chiedergli di mettere per iscritto ciò che crede o non crede sul mio conto. Fred tacque per un istante, poi aggiunse, appellandosi scaltramente alla vanità dello zio: Questa non è cosa che chieda un gentiluomo. Ma rimase deluso dal risultato. Già, so quello che vuoi dire. Preferiresti offendere me invece di Bulstrode. E cos'è lui? Non ha terre qui attorno che io sappia. Uno speculatore. Può fallire da un momento all'altro quando il diavolo smette di aiutarlo. Ed ecco cosa significa la sua religione. Vuole che Dio onnipotente stia dalla sua parte. Questa è un'assurdità. C'è una cosa che ho capito abbastanza chiaramente quando andavo in chiesa ed è questa. Dio onnipotente resta fedele alla terra, lui promette la terra e lui dà la terra e lui rende ricca la gente con grano e bestiame. Ma tu stai dall'altra parte, ti piace Bulstrode e la speculazione più di Thurston è della terra. Vi chiedo scusa, signore, disse Fred alzandosi ritto con le spalle rivolte al fuoco e battendosi lo stivale con l'infrustino. Non mi piace né Bulstrode né la speculazione. Parlò con aria piuttosto imbronciata, sentendosi giunto a un punto morto. Bene, bene. Puoi fare senza di me, questo è piuttosto chiaro, disse il vecchio Thurston, segretamente indispettito dalla possibilità che Fred potesse dimostrarsi in qualche modo indipendente. Non vuoi né un pezzetto di terra che faccia di te un signorotto invece di un parroco morto di fame, né un sussidio di un centinaio di sterline per il momento. Per me fa lo stesso. Posso fare 5 codicilli se voglio e mi terrò i miei biglietti di banca come riserva. Per me fa lo stesso. Fred arrossì di nuovo. Thurston gli aveva dato di rado dei regali in denaro e in questo momento gli sembrava quasi più difficile rinunciare alla prospettiva immediata delle banconote che a quella più remota della terra. Signore, non sono un ingrato, non ho mai avuto intenzione di mostrare disprezzo per qualsiasi gentilezza abbiate pensato di avere nei miei confronti, al contrario. Molto bene, allora dimostralo. Portami una lettera di Bulstrode che dica che non crede che ti sia vantato e abbia promesso di pagare i suoi debiti con la mia terra. E allora, se ti sei cacciato in qualche guaio, vedremo se posso darti una mano. Andiamo? Affare fatto. Qua, dammi il braccio, cercherò di fare il giro della stanza. Fred, a dispetto della propria irritazione, era abbastanza gentile da essere un po' addolorato. Per quel vecchio non amato e non riverito che con le sue gambe da tropico faceva più compassione del solito a vederlo camminare. Mentre gli dava il braccio, pensò che a lui non sarebbe piaciuto diventare vecchio col corpo che andava in pezzi. e attese pazientemente di udire le consuete osservazioni sulle faraone e il gallo segnamento, prima davanti alla finestra e poi davanti agli scaffali semivuoti, le cui glorie maggiori, relegate in pelle nera, erano Josephus, Culpepper, il messia di Klopstock e diverse annate del Gentleman's Magazine. «Leggimi chi ti deve i libri, andiamo, sei un universitario!» Fred gli lesse i titoli. Cosa voleva farne la signorinella di altri libri? Perché le devi portare altri libri? La divertono, signore, le piace molto leggere. Un po' troppo, disse Mr. Fairstone, incontentabile. Voleva leggere quando sedeva assieme a me, ma l'ho fatta smettere. Ha il giornale da leggere ad alta voce. Basta per un giorno, direi. Non posso sopportare di vederla leggere da sola. Bada di non portarle altri libri, mi senti? Sì, signore, vi sento. Fred aveva ricevuto quest'ordine un'altra volta e vi aveva segretamente disobbedito. Era sua intenzione disobbedire ancora. Suona il campanello, disse Mr. Thurston. Voglio che la signorinella scenda. Rosamond e Mary avevano parlato con più animazione dei loro amici. Non badarono a sedersi, ma restarono in piedi davanti al tavolo da toiletta accanto alla finestra, mentre Rosamond si toglieva il cappellino, si aggiustava la veletta e si toccava leggermente i capelli con la punta delle dita, capelli di un biondo infantile, nel colore della stoppa nei gialli. Mary Gers sembrava tanto più bruttina, fiancheggiata dalle due ninfe, quella nello specchio e quella fuori, che si guardavano l'un l'altra con occhi di un azzurro ceruleo, abbastanza profondi da contenere i significati più dolci che un osservatore ingegnoso potesse conferire ad essi, e altrettanto profondi da celare i pensieri della proprietaria, nel caso in cui fossero stati meno dolci. Solo alcuni bambini di Middlemarch sembravano biondi accanto a Rosamond, e la figura snella, messa a risalto dall'abito da cavallerizza aveva delle delicate ondulazioni. In effetti, la maggior parte degli uomini di Middlemarch, tranne i suoi fratelli, sostenevano che Miss Vincey era la più bella ragazza del mondo e alcuni la definivano un angelo. Mary Gers, invece, aveva l'aspetto di un comune peccatore. Era bruna, i capelli ricci e scuri erano ruvidi e ribelli. Era di bassa statura e non sarebbe corrisposto a verità affermare, per soddisfacente contrapposizione, che aveva tutte le virtù. La bruttezza ha i suoi difetti e le sue tentazioni particolari, quasi quanto alla bellezza. È portata a fingere l'affabilità o, nel caso non la finga, a mostrare tutti gli aspetti repellenti del malcontento. Ad ogni modo, essere definita brutta rispetto a quella stupenda creatura che vi è amica può produrre un qualche effetto oltre alla percezione della sincerità e correttezza della frase. All'età di 22 anni, Mary non aveva certamente raggiunto quel perfetto buonsenso e quella gratitudine che sono di solito raccomandate alle ragazze meno fortunate. Come se si dovessero ottenere in quantità già preparate, con un adeguato gusto di rassegnazione. Il suo come aveva una punta di amarezza satirica che rispuntava di continuo e non spariva mai completamente, se non grazie a un forte flusso di gratitudine nei riguardi di coloro che invece di dirle che avrebbe dovuto essere contenta, facevano qualcosa per renderla tale. Il passare degli anni aveva attenuato la sua bruttezza, che era di una buona qualità umana, quale le madri della nostra stirpe hanno assai frequentemente portato in giro a ogni latitudine sotto un copricapo più o meno adatto. Rembrandt l'avrebbe ritratta con piacere e avrebbe fatto in modo che i suoi tratti pieni guardassero fuori della tela con intelligente onestà. Infatti l'onestà, l'imparzialità sincera, rappresentava la virtù suprema di Mary. Essa non tentava di creare illusioni, né si abbandonava ad esse per il proprio piacere, e quando era di buon umore aveva abbastanza spirito da ridere di sé. Quando per caso si vide riflessa con Rosamond nello specchio, fece ridendo. Che sgorbio scuro sono accanto a te, Rosy. Sei la compagna che mi dona di meno. Oh no, nessuno pensa al tuo aspetto. Sei così sensata e servizievole, Mary. La bellezza è poco importante in realtà, disse Rosamond, volgendo il capo verso Mary, ma girando gli occhi verso la nuova immagine del suo collo nello specchio. Vuoi dire la mia bellezza? Disse Mary con aria piuttosto sardonica. Rosamond pensò: Povera Mary, prende in malo modo ogni gentilezza. Poi disse ad alta voce: Cosa hai fatto negli ultimi tempi? Io? Ho badato alla casa, ho somministrato lo sciroppo. Ho fatto finta di essere amabile e contenta. Ho imparato ad avere una brutta opinione di tutti. Fai una vita disgraziata? No, disse Mary secca, scrollando lievemente il capo. Penso che la mia vita sia più piacevole di quella della tua Miss Morgan. Sì, ma Miss Morgan è così scialba e non è giovane. È interessante per lei, suppongo. E io non sono del tutto sicura che ogni cosa si appiani quando si diventa più vecchi. No, disse Rosamond riflettendo, ci si chiede cosa fa gente simile senza alcuna prospettiva. Certo, c'è la religione a sostenerla, ma, aggiunse facendo una fossetta, per te assai diverso, Mary. Può darsi che ti facciano una proposta. Qualcuno ti ha detto che vuole farmela? Naturalmente no, voglio dire, c'è un gentiluomo che può innamorarsi di te vedendoti quasi ogni giorno. Un certo mutamento nel volto di Mary fu causato soprattutto dalla volontà di non tradirne alcuno. E questo fa sempre innamorare le persone? Chiese con noncuranza. Mi sembra altrettanto spesso una ragione per detestarsi a vicenda. Non quando sono interessanti e gradevoli. Sento dire che Mr. Lydgate è tutte e due le cose insieme. Ah, oh, Mr. Lydgate, disse Mary ripiombando in modo inconfondibile nell'indifferenza. Vuoi sapere qualcosa di lui? Aggiunse, non volendo assecondare le vie tortuose di Rosamond. Semplicemente se ti piace. Non è una questione di piacere al momento, perché uno mi piace, ho bisogno sempre di un po' di gentilezza che accenda il mio sentimento. Non sono abbastanza generosa ad apprezzare le persone che mi parlano facendo finta di non vedermi. È così altezzoso, disse Rosamond con accresciuta soddisfazione. Sai che è di buona famiglia? No. Non mi ha presentato questo come un motivo. Mary, sei la ragazza più strana. Ma che genere di aspetto ha? Descrivimelo. Come si può descrivere un uomo? Posso farti un inventario: sopracciglia folte, occhi scuri, il naso dritto, capelli fitti e scuri, mani bianche e solide. E lasciami pensare, uno stupendo fazzoletto di batista. Ma lo vedrai. Sai che questa è pressappoco l'ora delle sue visite. Rosamond arrossì un po', ma disse con aria meditabonda: Preferisco un uomo altero. Non posso sopportare un giovanotto che parla vanvera. Io non ti ho detto che Mr. Lydgate era altero, ma il Ien pur tous les goûts, come la piccola mamselle era solita dire. E se una qualsiasi ragazza può scegliere il particolare tipo di presunzione che gli piace di più, direi che quella sei tu, Rosie. L'altereggia non è presunzione. Fred lo chiamo presuntuoso. Vorrei che nessuno parlasse ancora male di lui. Dovrebbe fare maggiore attenzione. Mrs. Whale ha appena detto allo zio che Fred ha assai poco nerbo. Mary parlò spinta da un impulso infantile che ebbe la meglio sul suo discernimento. La parola di poco nerbo suscitava un vago imbarazzo che lei sperava venisse dissipato da qualcosa che Rosamond avrebbe potuto dire. Ma si astenne di proposito dall'accennare all'insinuazione più particolare di Mrs. Whale. Oh, Fred è terribile, disse Rosamond. Non si sarebbe permessa di pronunciare una parola così sconveniente davanti a nessuno, tranne Mary. Cosa intendi per terribile? È così insolente, fa infuriare tanto il babbo e dice che non si farà prete. Penso che Fred abbia assolutamente ragione. Come puoi dire che ha assolutamente ragione Mary? Pensavo che avessi un rispetto maggiore per la religione. Non è adatto a fare il prete. Ma dovrebbe essere adatto? Beh, allora non è quello che dovrebbe essere. Conosco qualcun altro che si trova nella stessa situazione, ma nessuno li approva. A me non piacerebbe sposare un prete, ma qualcuno deve farlo il prete. Non ne segue che debba farlo anche Fred. Ma se il babbo si è sobbarcato le spese degli studi perché lo facesse? E supponi solo una cosa, se non dovessero lasciargli niente in eredità? Riesco a supporlo molto bene, disse Mary in tono secco. Allora mi chiedo come tu possa difendere Fred, disse Rosamond, decisa a insistere su questo argomento. Io non lo difendo, disse Mary ridendo. Difenderei ogni parrocchia da un prete come lui. Ma naturalmente, se fosse un prete, dovrebbe essere diverso. Sì, sarebbe un grosso ipocrita, e ancora non lo è. È inutile parlare con te, Mary. Prendi sempre le difese di Fred. Perché non dovrei prendere le sue difese? Disse Mary illuminandosi. Lui prenderebbe le mie. È l'unica persona che si prenda minimamente la briga di farmi delle cortesie. Mi fai sentire molto a disagio, Mary, disse Rosamond con la più solenne dolcezza. Non lo direi alla mamma per tutto l'oro del mondo. Cosa non le diresti? Disse Mary con aria adirata. Ti prego, non arrabbiarti, Mary, disse Rosamond con la consueta dolcezza. Se tua madre ha paura che Freddy mi faccia una proposta, dille che non lo sposerei se me lo chiedesse. Ma non lo farà, ne sono sicura. Certo, non me l'ha mai chiesto. Mary, sei sempre così violenta e tu sei sempre così esasperante. Io? Di cosa mi puoi incolpare? Oh, l'agente irreprensibile è sempre la più esasperante. Ecco il campanello. Penso che dobbiamo scendere. Non avevo intenzione di litigare, disse Rosamond mettendosi il cappellino. Litigare? Stupidaggini, non abbiamo litigato. Se qualche volta non ci si può infuriare, a cosa serve essere amici? Devo ripetere quello che hai detto? Come vuoi, non dico mai quello che ho paura che potrebbero ripetere, ma scendiamo. Mr. Lydgate era piuttosto in ritardo quella mattina, ma i visitatori si trattennero abbastanza a lungo per incontrarsi con lui. Infatti, Mr. Thurston chiese a Rosamond di cantargli qualcosa e lei stessa fu così gentile da proporre una seconda canzone fra quelle da lui preferite. Continua a scorrere, fulgido fiume, dopo aver cantato Casa Dolce Casa, che lei detestava. Questo vecchio ostinato overreach approvava le canzoni sentimentali in quanto ornamento adatto per le fanciulle e anche in quanto fondamentalmente belle, dato che il sentimento era quanto di più adatto al canto. Mr. Thurston stava ancora applaudendo l'ultima esecuzione e assicurava alla signorinella che la sua voce era limpida come quella di un merlo, allorché il cavallo di Mr. Lydgate passò davanti alla finestra. La noiosa prospettiva della consueta sgradita prassi con un paziente anziano che non riesce a credere che la medicina non possa rimetterlo in sesto, purché il dottore sia abbastanza bravo, aggiunta alla sua vaga incredulità nelle attrattive di Middlemarch, fecero da sfondo doppiamente efficace alla sua vista di Rosamond che il vecchio Thurston si affrettò con maniera ostentata a presentargli come la propria nipote, sebbene non avesse mai pensato che valesse la pena di parlargli anche di Mary Garth sotto questo aspetto. A Lydgate non sfuggì nulla del comportamento aggraziato di Rosamond, la delicatezza con la quale, assumendo una tranquilla compostezza, allontanò l'attenzione che la mancanza di buon gusto del vecchio aveva attirato su di lei, senza mostrare le fossette nel momento meno adatto, ma mostrandole in seguito mentre parlava con Mary, alla quale si rivolse con un tale gentile interesse che Lydgate, dopo aver rapidamente osservato Mary in modo più completo di quanto avesse fatto in precedenza, scorse un'adorabile gentilezza negli occhi di Rosamond. Ma Mary, per qualche motivo, parve piuttosto di malumore. Miss Rosie mi ha cantato una canzone. Non avete nulla in contrario, dottore? Disse Mr. Thurston. Mi piace più della vostra medicina. Questo mi ha fatto dimenticare come passa in fretta il tempo, disse Rosamond alzandosi per prendere il cappellino che aveva messo via prima di cominciare a cantare, cosicché il suo capo simile a un fiore sul proprio bianco stelo apparve in tutta la perfezione sopra il costume da cavallerizza. Fred, dobbiamo proprio andare. Molto bene, disse Fred, che aveva i suoi buoni motivi per non essere nello stato d'animo migliore e desiderava andarsene. Miss Vincy suona? Chiese Lydgate, seguendola con lo sguardo. In Rosamond ogni nervo e muscolo era in armonia con la consapevolezza di essere osservata. Essa era per natura un'attrice, che eseguiva parti adatte al suo physique, recitava il proprio personaggio e così bene che non sapeva se fosse precisamente il proprio. È la migliore a Middlemarch, vi assicuro, disse Mr. Thurston. E sia lei a scegliere la seconda. Vero Fred? Parla tu per tua sorella. Temo di non essere qualificato, signore. La mia testimonianza non servirebbe a niente. Il livello di Middlemarch non è molto alto, zio, disse Rosamond con allegria e grazia, dirigendosi verso il frustino, che era a una certa distanza. Lydgate fu svelto a precederla, raggiunse il fustino prima di lei e si volse per porgerglielo. Essa gli fece un inchino e lo guardò. Lui naturalmente stava guardando lei, i loro occhi si incontrarono in quel modo particolare che non è mai il risultato di uno sforzo, ma sembra un improvviso divino dissiparsi di una foschia. Penso che Lydgate diventasse un po' più pallido del solito, ma Rosamond arrossì profondamente e provò un certo stordimento. Dopodiché ebbe davvero fretta di andarsene e non si rese conto di che genere di stupidaggine stesse parlando lo zio quando andò a stringergli la mano. Eppure, questo risultato, che essa giudicò una viva impressione reciproca, chiamata innamoramento, era proprio ciò che Rosamond aveva meditato in precedenza. Fin da quell'importante nuovo arrivo a Middlemarch, essa aveva intessuto un piccolo futuro, il cui inizio necessario era qualcosa di simile alla scena a cui abbiamo assistito.